Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Come cambieranno gli attacchi informatici a causa della disponibilità di sistemi di intelligenza artificiale sempre più sofisticati? E che ruolo avrà, al contrario, l'intelligenza artificiale nel difenderci dagli attacchi informatici? Ce lo chiediamo questa sera, nuova puntata della serie con cui qui a Smart City stiamo cercando di immaginare come l'intelligenza artificiale cambierà il mondo e vari settori nei prossimi anni. E allora, per lanciare uno sguardo nel futuro della cyber security, questa sera ci rivolgiamo a Giorgio Giacinto, professore di ingegneria informatica presso l'Università di Cagliari. Buonasera Giacinto. Buonasera. Allora, senta, intanto c'è un tema chiaramente sul piatto, cioè la possibilità che gli attacchi informatici, soprattutto quelli sofisticati che richiedono molta manodopera oggi, manodopera umana, ecco, in futuro possano invece avvalersi in gran parte di manodopera artificiale, quindi l'intelligenza artificiale usata per automatizzare gli attacchi informatici. Sì, per esempio quello che capita molto frequentemente è quello che uno mi vuole mandare una email per indurmi ad aprire una legata, allora me la manda fingendo di essere il rettore che mi convoca per una riunione urgente, mi manda in allegato il programma della riunione. Ecco, questa tipologia di mail è una tipologia a cui io posso cascare facilmente. Perché è molto sofisticata, cioè la riunione magari era qualcosa che lei si aspettava che sarebbe arrivata. Sì, c'è una conoscenza abbastanza profonda delle attività che vengono svolte e del modo con cui normalmente il rettore in questo caso convoca una riunione e manda l'agenda. Quindi c'è un lavoro di intelligence fondamentalmente alla base di questi attacchi informatici più sofisticati. Assolutamente sì, perché si tratta di fare un profilo della persona guardando i siti web, nei social e così via, e andando a recuperare dei documenti che per esempio in un ente pubblico come l'università sono appunto pubblicamente disponibili e poter imparare qual è lo stile Chiaro. Con cui queste attività vengono portate avanti. Ecco, qui lei dice questa attività che oggi appunto richiede una certa manovalanza può essere automatizzata, verrà automatizzata. Sì, pensiamo agli strumenti che vengono utilizzati per fare la traduzione automatica. Stanno diventando sempre più precisi proprio perché riescono a imparare da tantissime quantità di documenti che trovano in rete, e quindi pensiamo a quanti sono i documenti, le tracce certo, che certo. di noi lascia in rete, avere uno strumento che impara come è fatta la nostra vita. Ci sono altre forme di automatizzazione dell'attacco informatico in cui l'intelligenza artificiale può essere coinvolta? Sì. Pensiamo a trovare quali sono i punti deboli dei nostri programmi. Se io voglio trovare qual è il nuovo punto debole del programma che sto utilizzando per ascoltare la musica, oggi richiede diverse prove da parte di esperti umani. Potrei avere un sistema che automaticamente individua attraverso un i bug di programma. Sono dei bug? Cosa intende per punti deboli? Sì, dei bug di programmazione, dei fatti che possono consentire a un attaccante di utilizzare quel programma per finalità che non sono diverse da quelle per cui quel programma è nato fondamentalmente, no? Questo è spesso il trucco che utilizzano gli attaccanti. Ecco, come facciamo a difenderci? L'autenticazione è uno dei tipici meccanismi di difesa. Continuerà a funzionare? Questo è un tema estremamente caldo perché stiamo utilizzando sempre i sistemi progettati a suo tempo, quelli basati su una parola chiave che sappiamo essere il segreto di Pulcinella, no? Che è facilmente individuabile anche perché cerchiamo sempre delle parole facili che quindi anche l'attaccante può... Certo, delle scorciatoie, certo. Poi siamo passati all'autenticazione biometrica che richiede un attimino di sicurezza in più anche perché uno deve essere almeno inizialmente fisicamente presente. Il punto è che questa autenticazione biometrica in realtà viene catturata da dei sensori elettronici e non è detto che un sensore elettronico si accorga se sopra il sensore c'è un dito vero o un dito finto, davanti a una telecamera c'è una faccia vera oppure c'è una fotografia. E allora lì si può pensare ad andare a sistemi che si basano un po' di più sul comportamento di una persona, perché ciascuno di noi con i sistemi ha dei comportamenti diversi in termini ad esempio di pressione dei tasti su una tastiera, del modo con cui tiene uno smartphone, dal modo in cui anche muove il viso davanti a una telecamera. Sono tutti aspetti che è molto più complicato simulare. Certo. Però la difficoltà che abbiamo oggi è che è anche molto più difficile da modellare. Certo. Un sistema che catturi tutte queste informazioni e riesca a fare una firma precisa di come io mi comporto con lo strumento. Parliamo di intelligenza artificiale, a questo punto invece giocata in difesa, quindi per difendersi dai cyber attacchi. È uno scenario plausibile anche perché prefigura una specie di lotta fra intelligenze artificiali, una che gioca in attacco, una che gioca in difesa. Cioè finiremo per costruire dei data center solo perché se le diano di santa ragione, no? Sì, no, purtroppo questo è uno scenario a cui non solo io ma tante altre persone stanno pensando, perché esattamente come stiamo automatizzando la fase di riconoscimento della potenziale vittima, dal punto di vista della difesa cerco di capire qual è il comportamento dell'attaccante in maniera tale da stanarlo prima possibile. No? Tra l'altro anche le metodologie di solito si assomigliano in questo mondo, esatto, no? Esatto. Senta, ma dove ci porterà tutto questo? Dove ci porterà? La mia preoccupazione è che siamo andati eccessivamente veloci nell'introduzione di queste tecnologie, per cui oggi con uno stesso strumento riusciamo a creare sia il momento del ludico, per cui guardiamo il filmato, lo usiamo per lavoro, il computer, lo usiamo per i nostri conti bancari, lo usiamo per comprare degli oggetti su internet. E quello che fanno l'attaccante è utilizzare questo utilizzo multiplo dello strumento per indurci in errore e in inganno. Quindi lei dice che bisogna un po' tornare indietro in qualche misura. E in qualche misura pensando per esempio a degli strumenti che diventano specifici solo per una particolare attività. Pensiamo allo smartphone, dove si è rimasta la parola phone, telefono, ma di telefono continua ad avere sì. ben poco. Come una volta c'era il terminale della banca, parlava solo ed esclusivamente col server della banca su una linea dedicata. Sì, esattamente. Quello che serve è creare delle separazioni più forti fra le diverse reti, in maniera tale che quando due reti diverse, cioè quella dell'intrattenimento e quella bancaria, devono in qualche maniera parlare, se devono parlare, lo facciano attraverso un protocollo molto ferreo dove ciascuno di due chiede l'autorizzazione all'altro e fa delle verifiche molto stringenti per capire se l'altro è autorizzato. Va bene, grazie Giorgio Giacinto. Grazie a voi e buona serata. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì e buona serata anche da parte mia.